des fleurs, il y a la mer. Alger, Alger, Alger, il y a aussi un arbre près de la mer. I francesi sbarcavano e portavano vino mischiato alla sabbia. In fila per quattro in uno sporco mattino, due occhi di rabbia. La gente guardava, non voleva capire quanto potesse pesare un fucile, quanto potesse pesare un fucile, quanto potesse pesare. Strade piene di folla, scalza e frettolosa, i venditori ambulanti, i viaggiatori accaldati, le donne velate con gli sguardi pesanti. Si urlano i prezzi contrattando la fame. Solo 20 franchi per queste puttane, solo 20 franchi per queste puttane, solo 20 franchi. Algeri, Algeri, Algeri, ci sono i fiori, c'è il mare. Algeri, Algeri, Algeri, quanta strada fa un bambino per toccare il suo mare. Chi semina odio raccoglie il suo odio che resta nel tempo. Ed anche il deserto può cambiar di colore, diventare più violento. La mano di un bimbo si trasforma in pugnale. L'orgoglio di Francia comincia a tremare. A tremare l'orgoglio di Francia. Dentro al pozzo una bomba, nel cortile c'è il terrore. Tra gli odori della casba c'è più fumo, meno sole. 100 martiri e una piazza, dal palazzo fanno fuoco. Un cecchino, una vedova, sta morendo poco a poco. Algeri, Algeri, Algeri, ci sono i fiori, c'è il mare. Algeri, Algeri, Algeri, le bombe coprono il rumore del mare. Il vecchio Charles ha parlato, dal balcone ha detto, li abbiamo capiti. La folla osservava, pensando ai feriti. La sera le donne urlavano più forte. Alina Puenta aspettava la morte. Rinchiuso nel pozzo aspettava l'odor di terriccio delle scarpe straniere. Bestemmia lontana, Dargù se n'è andato, lasciando le croci a scavar nel pantano. Gente guardava il leone cadere, qualcuno che piange levando il bicchiere, levando il bicchiere, qualcuno che piange. Algeri, Algeri, Algeri, il y a des fleurs, il y a la mer. Algeri,